Il messaggero trovato l'assassino del gobbo, il messaggero, dai su, col giornale fresco de giornata, dai su, solo 40 lire, portatemi le spicce che non c'ho i soldi per da resto, dai su, col giornale fresco, fresco de giornata, lo so che forse non volete sto giornale, e lo so che ci sarà scritto mai di così importante su sto giornale, che è stato trovato l'assassino del gobbo, e beh, e che dovevamo aspettare 1960 per sapercelo che il gobbo l'avevano assassinato, sì, io ce lo sapevo pure 15 anni fa, nel 1945 che l'avevano ammazzato con due colpi dietro la schiena, gli avevano sparato ed era stato Sarvarezza, un certo tipo dell'Unione Proletaria che gli aveva sparato, sì, io ce lo sapevo pure 15 anni fa che l'avevano ammazzato al gobbo, che il gobbo era un amico mio, facevamo le battaglie e azioni insieme, certe battaglie, certe azioni con Giuseppe Arbano, il gobbo del quartisciolo, e andavamo in giro per tutta Roma con lui, e lui le battaglie le sapeva fare, il gobbo del... Ma che non conoscete il gobbo del quartisciolo? Ma che mi tocca ricominciare da capo? Giuseppe Arbano, il gobbo del quartisciolo, era uno bravo, faceva lo strillone al paese suo, in provincia di Reggio Calabria, a Gerace. Poi però, il 25 luglio del 1943, il padre del gobbo venne a sapere che Roma era libera, cioè almeno so pensava lui, cioè venne a sapere che aveva fatto arrestare Mussolini. Allora con sto pensiero che Roma era libera, prese la casa, la chiuse dentro due scatole di cartone, chiamò lo zio, la sorella, la cugina, la nonna, Giuseppe Arbano, li mise su un treno e li spedì da Gerace, in provincia di Reggio Calabria, Labbra dritta a Roma al quartigiolo da un cugino pensando che cambia vita, ma la vita non poteva cambiare, Roma non era libera, e Giuseppe Arbano con quella voce squillante che si ritrovava si ritrovò pure a Roma a fare lo strillone, lo presero a lavorare per messaggero che vendeva lì i giornali, e io lo conobbi proprio una giornata d'agosto a San Lorenzo mentre stavo a vendere lì i giornali, io camminavo per le vie della città per San Lorenzo e me sentì sta voce squillante e messi, ma chi è questo che strilla così, e incuriosito mannai a vedere chi è che stava a strillare a vendere i giornali, e lo conobbi proprio lì, mi ci misi a parlare, io ci avevo 12 anni allora, lui ce ne aveva 16, ma pareva ce n'avesse 30, certi lineamenti marcati, uno sguardo, un grugnito, una faccia da duro, cioè gobbo era gobbo, Era una specie di deformazione che gli era presa da ragazzino, diceva lui, ma pareva un pezzo che gli avevano appiccicato sulla schiena in un secondo momento, ma era una saetta, E sì, perché uno si immagina che un ragazzetto gobbo, che ne so, non si può nascondere, non riesce a scappare, ma de che, Giuseppe Arbano, il gobbo del quarticciolo, era una saetta, scappava, sparava e se nascondeva senza che nessuno se ne era accorto, e c'aveva una voce così squillante, ma così squillante, che lui le copie, le finivano un'ora, mica come a me, che ci metto una giornata, e poi per via della gobba dicevano pure che portava fortuna, e io gliel'ho pure toccata la gobba. Ma la fortuna non mi è mai arrivata, sono 15 anni che sto qui a fare lo strillone, e che me la chiamate fortuna voi? Lui no, lui si vedeva che la fortuna ce l'aveva e che era sprecato per fare lo strillone, tanto che dopo poco lo presero subito dentro una farmacia a far garzone. E l'8 settembre del 1943, col camice verde da garzone addosso, stava in prima linea, pronto a combattere contro i tedeschi che erano arrivati. E sì, perché il padre del gobbo si era sbagliato, Roma non era libera per niente, c'erano americani che intanto erano sbarcati a sud e stavano a provare a risalire tutta l'Italia per arrivare per prima a Roma, ma i tedeschi che avanzavano da nord, avevano fatto prima, se di no, si erano presentati prima alle porte di Roma e si erano presentati alle porte di Roma lì a Porta San Paolo, all'ingresso di Roma Sud, e quell'8 settembre si erano presentati per poter entrare dentro Roma e comandassela, ma si erano dovuti fermare. E sì, perché all'ingresso di Roma Sud, proprio quando si erano presentati i tedeschi, al di là della porta, nel piazzale là davanti, si era radunata una mucchia di gente, ma una mucchia, tanta e tanta e tanta gente, che era pronta a combattere contro i tedeschi per non farli entrare. E in mezzo a quella mucchia c'era pure lui, Giuseppe Arbano, il gobbo del quartisciolo col camice verde da garzone ancora addosso. Io no, io stavo da Mizzi Franchino, che c'aveva una bottega di Carzolaro de Ciabattino proprio su via Ostiense, ma a Mizzi Franchino della politica e della guerra non gliene fregava niente. Lui mi diceva sempre: Arice, io devo da lavorare, Arice, che i sordi non me li danno né re, né Mussolini, né i tedeschi, né gli americani, ma le sole delle scarpe che riparo ogni giorno. Questo mi diceva sempre Zi Franchino, e tanto che stava piegato, e tanto che stava a lavorare, che la gobba gli era venuta pure a lui, ma a triangolo, diversa da quella di Giuseppe Arbano, ma Zi Franchino era curioso. E come sentì gli strilli della mucchia di gente che si era radunata lì intorno alla piazza, prese due binocoli, chiuse la bottega e me portò su al terrazzo per andare a vedere quello che succedeva. E quando ci arrivai al terrazzo, mi pareva di star cinematografo. De qua, una macchia, irde, caschi, ermetti, divise, carri armati che marciavano compatti, pronti per entrare dentro la città. De là, una mucchia di gente colorata con i fazzoletti in testa, gli stivali ancora sporchi di fango, che si difendevano per non farli passare. Sì, perché lì in mezzo a loro c'era pure qualche militare, ma erano i militari dei re e dei Badoglio, che intanto erano scappati, erano andati a Brindisi, avevano firmato armistizio con gli americani, e a sti poracci dei militari li avevano lasciati a Roma, che non sapevano che fa, non sapevano con chi dovevano stare, e dovevate sentiveli sti militari come strillavano, che non sapevano e strillavano e dicevano: mettemosi con i tedeschi, no, e re sarebbe stato capo per gente, no, e re sarebbe stato con i tedeschi, no, capo per gente, ma che stati sarebbe stato con i tedeschi, e li strilli arrivavano fino al terrazzo del Zifranchino, e io da là sopra mi stavo a divertire. Sì, a 12 anni a me mi pareva un gioco, uno di quei giochi che si fa da ragazzini, no, li soldatini da una parte, il presepe dall'altra, e aspettavo solo che li soldatini e il presepe si incrociassero e succedesse il finimonno. Un gioco, sì. Ma la guerra, quella vera, e non è mai un gioco. E me ne accorsi quando le mitragliette si misero a cantare e li soldati cominciarono a marciare compatti per entrare dentro Roma, e da là la gente si andava a nascondere, li feriti per terra, il fuoco, il fumo, le fiamme, scappavano, sì, col sangue per terra, ma mica scappavano e basta, si difendevano come potevano, pure senza armi. C'era Sora Cettina, a Fornara dei 100 celle, c'aveva la pala del forno in mano. Cioè, non ho mai capito che ci volesse fare con i tedeschi, ma stava lì, pronta a combattere, per non farli passare, c'era pure Gigetto, per farlo poter quadrare, stavano tutti là, a sgomitare, a darsi la mano, e poi c'era lui, Giuseppe Arbano, il gobbo del quartisciolo, lui sì che ce la sapeva fare la guerra, lui sì che l'aveva rimediate le armi, chissà dove, ma lui sì che compariva in mezzo al fumo, compariva nella folla, e poi scompariva, si dileguava, in 10 secondi, lanciava una bomba, un corpo di mortaio, una bomba, un corpo di mortaio, e poi scompariva, come se nessuno l'avesse mai visto, io non lo so come ce la sapeva fa la guerra, ma lui sì che la sapeva fa, io no, io stavo sempre sul terrazzo dei Mizzifranchino, ma da quel terrazzo l'8 di settembre del 43 capì che c'erano lì piccoletti che mo se stavano a organizzare. Cioè, io a 12 anni non ci sapevo niente della guerra, ma mo che vedevo i piccoletti che si organizzavano contro quelli più grossi. Beh, io che per essere piccolo da ragazzino ci avevo preso un sacco di botte, ma volevo vedere come si faceva da piccoletti a difendersi da quelli più grossi, che mo erano i tedeschi, ma poi potevano essere chiunque altro. E io me ne stavo là a guardarmeli e a cercare di capire, allora mi venne l'idea che volevo diventare bravo pure io, come tutti quelli piccoletti, a difendermi da quelli più grossi. E pensai che l'unico che mi poteva aiutare a spiegarmi come ci si difendeva da piccoli contro quelli più grossi era lui, era Giuseppe Arbano, il gobbo del quarticciolo, e pensai che me lo dovevo andare a cercare e a parlargli. Solo che poi mi resi conto che, scriccioletto com'ero a 12 anni, ma che gli andava a raccontare? Ma che gli potevo dire? Ma quello mi guardava e si metteva a ride, no? Non ci poteva andare da solo. Allora mi venne l'idea che l'unico modo per convincerlo a Giuseppe Arbano di farmi entrare nella banda sua, che lui intanto si era fatto una banda, la chiamavano la banda del gobbo, al quarticciolo, sarà stato per via della gobba o chi lo sa. Insomma, che l'unico modo per poterlo convincere a farmi entrare nella banda sua era quello d'annaccia insieme agli amici mia. Che se mi avesse visto in 7, in 8, in 9, in 10 volenterosi, quello forse si sarebbe convinto, ma io da solo non andavo. E allora il giorno dopo, con sto pensiero in testa, me l'andai a cercare l'amica mia, che come tutti i pomeriggi se ne stavano a fare la partita a Villa Gordiani. La partita a pallone, sì, la solita. E io ci arrivai de corsa, che io volevo raccontare dell'8 settembre, de Sora Cettina, del Gigetto, del Gobbo, del Zifranchino, del Binocolo. Io volevo raccontare tutto quello che avevo visto, dei tedeschi che sparavano. E quando ci arrivai davanti a loro... Sì, li trovai che mi aspettavano, come al solito, Necanè, Erpigna, Romoletto, Erpalude, Mimmo, Ercarota, tutte e sei, pronti là, ma mica per ascoltarmi. Pronti per farsi la solita partita a pallone, ma loro c'erano 12 anni che ne potevano capire della guerra. E io lasciai perdere l'idea di andarli a convincere di entrare dentro la banda del gobbo. Mi misi a giocare a pallone con loro, in fondo. Ormai mi ero fatta la sfacchinata, mi ero fatta la corsa che me ne tornavo a casa. E allora mi misi a giocare la solita partita, a una porta unica, 3 contro 3. Chi per prima arrivava a 3 aveva vinto. Mimmo in porta, che era grosso e come tutti quelli più grossi, gli toccava stare in porta. Io, Necanè, Erpigna da una parte, Romoletto, Erpalude, Ercarota dall'altra. 3 contro 3, a una porta unica, e chi per prima arrivava a 3 aveva vinto. E la partita quel giorno si giocava de fino, de tacco, de punta, per confondere gli avversari, ma tanto che se faceva, se girava e se rigirava, che non si riusciva a segnare, perché Mimmo già era grosso e la porta la copriva de suo, e si poi andava de parà, non c'era verso de segnare, e gli tiravi col destro, col sinistro, con una coscia, con l'altra coscia de testa, come gli tiravi, lui te la piava con una mano, con l'altra mano, con gomito, con l'altro gomito, con una spalla, con l'altra spalla, tutte te le piava, tanto che dopo mezz'ora stavamo ancora 0-0, e ci saremmo rimasti sullo 0-0 per un'ora, per per 2 ore, per 3 ore, se non fosse sbucato un soldato arto, arto, arto, arto, arto, magro, magro, magro, magro, magro, con una faccia giallina, gli occhi scavati di fuori, questo minimo, minimo, non mangiava da una settimana, sto soldato, c'aveva scritto divisione Piave sul petto. Era un soldato del re de Badoglio che avevano firmato armistizio, stavano a Brindisi da americani, a sto poraccio del soldato l'avevano lasciato a Roma, che non sapeva con chi si doveva mettere, con chi doveva stare, se de qua o de là. E questo sto poraccio girava per Roma a cercare di capire se stacca americani, se stacca i tedeschi, che la povera gente. E girava per Roma pure a cercare da mangiare, ma visti i risultati non credo che gli riuscisse. Ma insomma, a noi sto soldato non ci voleva chiedere né da mangiare, né con chi doveva stare nella guerra. A noi questo ci voleva chiedere di poter giocare a pallone con noi. E noi a uno così lo dovevamo far giocare per forza. Questo era un fenomeno. Io non avevo mai visto una cosa così. Lo dovete vedere pure voi. Se arrassava la palla col tacco e sulla punta e se la palleggiava col destro. E mentre stava lì che palleggiava ti raccontava tutta la vita tua, tutta la vita sua. E la palla mica gli cascava. Ti raccontava di quando era ragazzino lì sul Piave. Ti raccontava delle battaglie. Ti raccontava tutto. E poi se la passava sul sinistro arrivava a palleggiare. E continuava a raccontare. Raccontava e palleggiava. Non si azzittiva mai. E il pallone non gli cascava mai. Che io volevo interrompere solo per dire: ma te sei sprecato per far soldato. Ma non lo vedi quanto sei buono? Bravo, tu dovevi far carciatore minimo minimo nella vita, ma non mi dava il tempo, perché questo palleggiava e raccontava su una coscia, l'altra coscia, su una spalla, sulla testa, si fermò il pallone sul collo del piede, ce lo poteva tenere incollato pure per mezz'ora, e poi dal collo del piede se lo passava al collo della testa, eppure lì ce lo poteva tenere incollato per un'ora, per 2 ore, e ripiava a palleggiare, la rimise giù, sarsò la palla di nuovo col tacco e con la punta, e mi fece un passaggio in rovesciata, ma così bello che con quel passaggio mi scordai dei re, del gobbo e della guerra. Ma i re, il gobbo e la guerra tornarono come un'ossessione la mattina dopo. Se l'amica mia non li potevo convincere, ci andavo io a parlare da solo con Giuseppe Arbano. E mi partì dal quartiere mio, che era centocelle e come tutte le periferie stava messa male, e mi avventurai verso il quarticciolo, che come tutte le borgate stava messa peggio, ma molto peggio. E quando ci arrivai mi resi conto di che voleva dire stava messa peggio, perché mi trovai certe baracche de paglia sporche, luride, con certi sorci dentro, certe bestie così grosse che te se mangiavano per la fame, e poi le purci, le zecche a sartellare sui letti e aspettà solo che li culi se posassero per poter fare la festa pure loro, e li musi della gente al quarticciolo, tutti rivolti verso il basso, tutti a guardare verso terra, ma no per la tristezza, che non c'era tempo allora di essere tristi, era per la fame, che gli contorceva lo stomaco, li costringeva a guardare sempre rivolti verso il basso. Ma stomini una dignità ce l'avevano, e se tu ti avvicinavi e gli dicevi: conoscete Giuseppe Arbano o il gobbo del quarticciolo? E che non lo conoscemo, ce ne fossero come a lui, quello almeno ce l'ha da magnà, mica come a Mussolini. E sì, perché Mussolini di questi se ne era dimenticati, l'aveva lasciati là abbandonati nella borgata a morisse di fame, tanto lui c'aveva l'amanti, gli ospiti stranieri quando venivano gli faceva degli splendori di Roma, figuriamo se si interessava di sti morti di fame della borgata. No, a questi l'aveva lasciati morire, ma il gobbo no. Il gobbo un poco tempo si era fatto conoscere, sarà stato per via della gobba, sarà stato per via della furbizia, ma sarà stato soprattutto perché il gobbo era uno sveglio che gli voleva bene a sta gente. Infatti che faceva il gobbo? Se ne andava dagli signori che tenevano la borsa nera, ma da quelli che ci speculavano, da quelli che se vendevano a 10, a 15, a 20, a 30 volte il prezzo la roba da magnà, e con 3-4 paroline che forse non è il caso proprio di dì, insomma con 4-5 paroline che forse se è meglio che non le dico, li convinceva, cioè li costringeva, diciamo meglio, e se portava via tutta la roba da magnà, e se la portava al quarticciolo la metà la teneva per lui e per la famiglia sua, e il resto lo distribuiva in giro a chi c'aveva fame, a chi c'aveva bisogno, a chi non poteva magnare. E per questo motivo tutti gli volevano bene al quarticciolo, e per questo motivo tutti sapevano dove stava la sede, l'ufficio suo, lo sapevano tutti dove stava l'ufficio suo, solo che nessuno me ce volle accompagnare, me lo indicarono, perché il gobbo era sempre un delinquente, e mica era uno bravo, Sì, faceva del bene, ma sempre un delinquente era, quindi la gente un po' lo temeva, la paura c'era, infatti tutti mi dissero dove stava l'ufficio, ma nessuno mi ci accompagnò, ma io mi ci avventurai uguale, incosciente com'ero a 12 anni, e sì, mi ci avventurai uguale, e perché l'ufficio del gobbo stava dietro la piazza del quarticciolo, dietro la piazza c'era un viale arberato, e in fondo a sto viale c'era una casa diroccata ad un unico piano, il secondo mancavano fino a decostruirla, e io mi ci avventurai, incosciente com'ero a 12 anni, manco mi resi conto dei due, piantone che stavano fuori dall'ufficio con la pistola in mano. Niente, io tiravo dritto, mica ce lo sapevo, mica ce pensavo che il Gobbo era un delinquente. Io l'avevo visto solo battagliare nella guerra, ma a me non me ne fregava niente, io dovevo andare dritto e andai dritto, dritto verso l'ufficio suo. E manco me ne curai degli due con le armi, forse mi videro scriccioletta e mi fecero passare. Beh, fatto sta che riuscì a entrare e lo incrociai al Gobbo, per fortuna, perché sennò manco starei qui a raccontarvi questa storia. E lo incrociai e gli raccontai tutto, mi misi a parlare, non mazzitti un attimo, per mezz'ora raccontai di tutte le cose che avevo visto. Insomma, lui per farla breve mi disse: beh, che vuoi insomma da me però. E io gli spiegai che volevo entrare nella banda sua, che volevo diventare bravo come tutti i piccoletti a difendersi da quelli più grossi. E lui mi tranquillizzò, mi disse che un compito c'era pure per me, che ci potevo entrare per davvero nella banda sua, ma era un compito delicato, mi disse. E mi disse che il compito mio era quello di andare a far assume dal messaggero il giorno dopo e diventare uno strillone. Che detto così pare una cosa facile, ma il compito mio non era mica quello di vendere il messaggero, di vendere i giornali. Il compito mio era quello di distribuire l'Avanti, che era un giornale proibito, e proibito all'epoca voleva dire che se te lo trovavano in mano te staccavano la capoccia, la lasciavano a rotolà per la discesa fino a che non finiva. E il compito mio era proprio quello, de fa finta di distribuire il messaggero, ma da chi veniva e mi diceva la parola d'ordine, te taglia pure l'Avanti. E io subito, pure lì incosciente come ero a 12 anni, subito mi feci assumere il messaggero il giorno dopo, che per l'entusiasmo che era entrato nella banda del Gobbo io lo volevo dire a Giuseppe: ma chi te ce l'ha appiccicato quel pezzo dietro la schiena, mo fai conoscere pure a me che la voglio pure io la gobba. Ma poi non mi pareva delicato e non glielo dissi. Però fatto sta che io dal giorno dopo mi feci assumere dal messaggero e cominciai a lavorare, e nessuno sospettò di me. Andai avanti dritta a lavorare a settembre, a ottobre, a novembre. Il compito mio dentro la banda fu proprio quello, distribuì l'Avanti, e io lo tenevo dentro la giacchetta. E a quelli che mi venivano e mi dicevano la parola d'ordine, mi dicevano che erano amici di Giuseppe, insomma che potevo capire che mi potevo fidare, io piavo l'Avanti da dentro la giacchetta, lo infilavo dentro al messaggero, perché per fortuna l'Avanti era un po' più piccolo, e io lo davo come se stessi a piali sordi per del resto, no? Li piavo da dentro la giacchetta, l'Avanti lo infilavo dal messaggero e glielo davo in un attimo, come se piassi i soldi per d'arresto. E nessuno sospettò di me, nessuno sospettò di me. Il lavoro mio fu liscio a settembre, a ottobre, a novembre, ma poi a dicembre la situazione si incarognì, si imbufalì, si imbestialì. 3 mesi di occupazione tedesca si facevano sentire sulla pelle della povera gente. Mancava l'acqua, il gas, la luce, il coprifuoco era stato anticipato alle 3:30, e mica si ponevano avanti così, no? La gente ormai era stanca, ognuno cercava il modo per combatterci contro i tedeschi, ognuno, pure quelli che non saranno mai interessati, tutti si mettevano in mezzo, no? Tutti si mettevano in mezzo, e soprattutto il Gobbo, che disse: vabbè, le prime azioni sono state di delinquenza, ma mo se passa all'azione diretta. E allora ci riunì un giorno nell'ufficio e ci diede dei compiti nuovi ad ognuno di noi, pure a me. Mi diede 2 compiti nuovi, tutti per me, pure se avevo 12 anni, ormai ero della banda a tutti gli effetti. E mi disse che i compiti miei li dovevo svolgere bene, magari mi dovevo far aiutare da qualcuno. Io pensai subito all'amica mia, perché il primo dei compiti mia era quello di andare a sabotare le linee telefoniche che permettevano il collegamento tra un comando tedesco e l'altro comando. Beh, io mi arrampicavo su sti pali armato de cesoie, e come stavo in cima, zac, zac, zac, zac, tagliavo tutto quello che potevo tagliare. Per sto motivo feci pure manca la corrente al mandrione, ma questa è un'altra storia ed è meglio che non va a racconto. E il secondo dei compiti miei invece era quello di andare a sabotare i camion tedeschi che passavano tutti i giorni a combattere contro gli americani, che nel frattempo stavano a casino e erano arrivati pure ansio, no? E allora sti tedeschi che tutti i giorni devono andare lì a combattere, ogni giorno, ogni sera si devono fermare, sì, perché un fabbro di Trastevere era inventato certi chiodi a 4 punte belli, affilati, che aveva fatto? Aveva preso 2 chiodi di quelli lunghi lunghi lunghi belli affilati con la punta bella bella sporgente, no? E l'aveva intorcinati uno sull'altro in modo da fargli fare 4 punte. La bellezza di sti chiodi è che quando tu li lanciavi pure da lontano, 3 punte rimanevano per terra a fa da base, la quarta sbucava per aria e come li soldati ci passavano sopra con i camion, ping pum pam pam, te parete sentivi una sinfonia, che parevano l'alleati che bombardavano, e te vedevi i tedeschi che scendevano dagli camion loro e smadonnavano nella lingua loro, che seppure era in tedesco io lo capivo come se fosse in italiano. Ma da mo che me ne era nato, perché se i tedeschi mi trovavano lì mi avrebbero staccata la capoccia, voglia fare la rotola pa' casilina, pa' prenestina e pa' tuscolana, a voglia rotolare la capoccia mia. Ma da mo che me ne era nato, per me quello era un gioco, no? Era un gioco, io mi divertivo con l'amica mia a 12 anni a fare sti giochi, ma ormai nessuno giocava più, tutti si erano incarogniti, persino zio Franchino, che un giorno mi disse: Ricci, ma com'è che sti americani ne arrivano mai, Ricci? È un mese che stanno ansio, possibile che questi non sono buoni a fare 40 km in un mese, Ricci? Te lo dico io qual è il problema, Ricci. Questi sono stranieri, non conoscono la strada, e per quello che non arrivano mai, tocca mannaggia qualcuno indicargli la strada, e poi vedi che quelli arrivano pure. E forse c'aveva ragione zio Franchino, che gli americani non conoscevano la strada, o forse c'aveva ragione chi su un muro grosso a Trastevere c'aveva scritto: America, resistete, che presto verremo a liberarvi. O forse c'aveva ragione sempre chi a Trastevere, quando c'era una targa, quando c'era scritto: Trastevere, Trastevere, brilli di nuova luce, il re, la Madonna e il Duce vegliano su di te. E sotto c'avevano scritto: stanchi di tanta luce, volemo sta all'oscuro, andatevene a fanculo, Duce, Madonna e re. E questo era il modo pure per combattere, no? Pure una scritta sul muro, perché tutti si dovevano mettere in mezzo, pure con la scritta sul muro, ma la stanchezza era tanta. La stanchezza si faceva sentire, mesi e mesi di occupazione tedesca si facevano sentire sulla pelle della povera gente, e soprattutto su quella della povera gente, e tutti sembravano stanchi, tranne lui. Giuseppe Arbano, il gobbo del quarticciolo, quello pareva non si stancasse mai. La mattina stava da una parte, il pomeriggio da un'altra, il giorno dopo da un'altra ancora. E compariva e scompariva, era diventato un incubo, un'ossessione per i tedeschi, che lo vedevano comparire in tutti i agguati e non lo riuscivano mai a pià. E tanto che era un incubo, e tanto che era un'ossessione, che una mattina, mentre stavo a leggere il giornale che distribuivo, perché ogni tanto me lo leggevo pure io, mi fermavo, me stavo lì sullo scalino vicino a Fontana de Trevi, e aprì sto giornale e lessi un trafiletto in seconda pagina, dove c'era scritto che il comando tedesco dava ordine alle sue truppe di arrestare tutti i gobbi presenti sul territorio romano alla ricerca del gobbo del quarticciolo. Cioè, lo scrissero davvero, non è che me lo sto inventando. Volevano davvero arrestare tutti i gobbi, che così almeno avrebbero preso pure a lui. Ma il pensiero mio, quando lessi sto trafiletto, e non no, Giuseppe Arbano, il gobbo del quarticciolo, quello se poteva difendere da solo, quello ce la faceva da solo, il pensiero mio a nozzi Franchino. Perché mi ricordai che la sera prima gli avevo lasciato certe copie dell'Avanti, proprio sotto al bancone da lavoro. E i tedeschi che sapevano sparare, ammazzare, ma la furbizia proprio non ce l'avevano. Se me l'avessero trovato, gobbo, com'era, con le copie dell'Avanti sotto al bancone, ma avrebbero lasciato lì stecchito con la testa rotolata per via Ostiense, e lì la discesa era pure lunga. No, no, io non glielo potevo permettere questo, lo dovevo andare a salvare, la vita del zio Franchino dipendeva da me. E allora per sto motivo mi strinsi forte solo le copie dell'Avanti dentro la giacchetta e cominciai a correre da Fontana de Trevi, e mi misi a correre lasciando il messaggero lì che subiassero pure, e correndo, arrivato a Piazza Navona, sbattei addosso a uno che mi disse: ah ragazzi, mando cori, ragazzi, sto a salvarsi Franchino. Ma questo non fece in tempo a sentirmi, ma durante una guerra si vedi uno che corre, è meglio che corri pure te, perché se vede che sta succede qualcosa. E così io correvo davanti e questo mi correva dietro. Arrivato all'imbocco del Lungotevere, quelli che mi corrono dietro erano diventati 10, che durante una guerra si vedi 9 che corrono, è meglio che corri pure te, perché se vede che sta succede qualcosa. Ma io non mi potevo fermare e continuavo ponte per ponte sul Lungotevere. Arrivato all'imbocco del terzo ponte, sbattei addosso a un altro che mi disse: ragazzi, ma non stai a correre con quest'altri 50 che te corrono dietro, stiamo a salvarsi Franchino. Ma manco questo faceva in tempo a sentirmi, ma durante una guerra si vedi 60 che corrono, è meglio che corri pure te, perché si so 60 a correre vuol dire che pure qualcosa di grosso. E infatti de dietro chi diceva i tedeschi, chi gli americani, chi i partigiani, ognuno c'aveva la teoria sua, solo io ce lo sapevo che stavamo a correre per zio Franchino. Ma mica mi potevo fermare, mica gli potevo spiegare. E continuavo e vedevo che da ogni ponte si aggiungeva gente, alla fine del Lungotevere erano già diventati 140, ma io non mi fermavo, presi a fa fino a Piazza Ostiense, e da Piazza Ostiense si raduna un'altra mucchia di gente che tanto si vede 190 che corrono, è meglio che corri pure te, perché si vede che è qualcosa di grosso. Ma io non mi potevo fermare e continuavo a correre sempre più forte su via Ostiense, sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, fino alla bottega del zio Franchino. Era aperta. Ciao Arisce. E se rimise piegata a lavorare senza manco chiedermi del fiatone, da fascia rossa, niente. Ma io non potevo perdere tempo con lui. Andai dritto nel bancone da lavoro, presi le copie dell'Avanti che gli avevo lasciato la sera prima, ci aggiunsi le mie, me ne andai nel cortile e gli feci un'unica fiammata che, come vedevo che bruciavano, un po' mi dispiaceva perché erano informazioni importanti, ma un po' pensavo pure che finalmente la vita del zio Franchino era salva. Eppure la mia, mica tanto. Fuori dalla bottega c'erano i 200 che mi avevano seguito, chi da Piazza Navona, chi da Lungotevere, chi da Piazza Ostiense, e volevano sapere il cazzo del motivo per cui si erano fatti sta corsa. E c'avevano ragione pure loro. Tranquilli, potete andà, zio Franchino è salvo. No. Grazie a tutti, grazie, non vedevate disturbare a fare questa sfacchinata, ma capitemi pure a me, non me potevo fermare, stavo lì a spiegare. Grazie a tutti comunque, grazie, potete tornare a casa dai famiglie vostre, grazie, non è successo niente, grazie, ma che grazie, ragazzi, è il più grosso di loro. Il primo, quello di Piazza Navona, mi teneva dalla giacchetta che manco gliela faceva toccare con i piedi per terra. Un altro, che non lo potevo vedere, ma che dalla mano mi pareva grosso pure lui, mi teneva lì i capelli dietro la nuca. E il primo si avvicinò faccia a faccia, che quasi mi stava per baciare, e mi disse: «Ah, ragazzi, ma che non ce lo sai che durante una guerra si vedo uno che cuore mi metto a cuore pure io, ragazzi? Ma che te le devo spiegare io ste cose? Ma che non ce lo sai? Beh, che è sto motivo per cui mi sono fatto sta sfacchinata, ragazzi? Sto vecchiaccio spelacchiato gobbo che sta là e manco si è accorto d'un cazzo, ragazzi? O mi spieghi il motivo per cui ho corso o pi tante di quelle botte, ma tante di quelle botte che te le ricordi per tutta la vita, ragazzi?» E che gli potevo spiegare? Abbassai la capoccia e mi preparai a piallo sto sacco di botte. Ma mentre abbassavo la capoccia con la coda dell'occhio, vidi la salvezza. E se fa per di. Quattro camion dei soldati tedeschi arrivavano dal fondo della via e puntavano dritti verso la bottega del Zifranchino. Lì 200, come videro lì arrivare i camion tedeschi, ripresero a correre al senso contrario, ancora più forte, perché stavolta ce lo sapevano il motivo per cui cazzo correvano. E dovevate vedere come pistavano, ma io non potevo guardare loro. Vidi subito i tedeschi che scesero dai camion, puntarono dritti verso la bottega del Zifranchino, che loro a Zifranchino lo conoscevano, che gli faceva certi lavori per gli scarponi da soldato, che mi diceva sempre: «Tanto Arisce, mica gli incollo bene gli scarponi, gli lascio la punta ballerina che così cascano, non ciampano e se rompono una gamba i tedeschi, chi è?» Ma nel frattempo i tedeschi erano entrati, avevano afferrato Zifranchino e lo trascinavano, e Zifranchino puntava i piedi e strillava: «Ma che ho fatto io? Ma io non c'entro niente, io, ma io non ne so niente della politica, della guerra, degli tedeschi, degli americani, io non ne so niente, ma che ho fatto io?» Eppure io con una mano tenevo la spalla di Zifranchino, con l'altra quella degli soldati, e strillavo forte, forte, ma così forte, ma così forte, ma così forte che li convinsi. Mi portarono via pure a me, insieme all'altri. E ci portarono dentro via Tasso, dentro uno stanzone sporco, lurido e pieno di muffa. E quando arriva io eravamo un centinaro dentro quello stanzone. Ma man mano che il tempo passava, sto stanzone si andava a riempire. E sti camion continuavano a sfornare gente, e tutti ammucchiati dentro sto stanzone. Solo quando arrivammo a 400-500 lì dentro, guardandomi intorno, mi resi conto che lì l'unico dritto ero io, ma non nel senso della furbizia, nel senso della schiena, ero l'unico dritto. E allora, a me, che ancora ci credevo alla fortuna, non mi pareva vero. Mi misi a sartellare lo stanzone, a toccargliela tutte le gobbe, e mi dissi: «Un conto ne tocchi una, un conto ne tocchi 400-500, la fortuna ad arrivare per forza». E mi misi a sartellare, a toccargliela tutte ste gobbe, che c'erano tutte le forme geometriche possibili e immaginabili di gobba: a sfera, piramidali, trapezioidali, come le volete immaginare voi, che io, scemo come ero a 12 anni, mi credevo che c'avevi o come un pezzo che t'avevano appiccicato sulla schiena come quello di Giuseppe Arbano, o a triangolo come quello di Zifranchino. E no, lì dentro c'erano tutte le forme possibili, io sartellavo. Ma arrivai sì e no al decimo, perché entrò un soldato e fece un unico gesto. E ne arrivò un altro che mi prese dagli capelli, mi diede un carcio sull'osso sacro che, se ci ripensa, ancora mi fa male. E per fortuna però mi ritrovai fuori da via Tasso. Però Zifranchino era rimasto là dentro e mica ce lo potevo lasciare. E l'unico che mi poteva aiutare, l'unico che mi poteva spiegare come si poteva liberarsi Franchino da là dentro, era Giuseppe Arbano. Allora il pomeriggio stesso me lo andai a cercare, ci andai a parlare, gli spiegai di tutto quello che era successo, gli dissi pure che in fondo la colpa era la sua, perché si mi avevano preso Franchino e perché stavano a cercare lui. E lui però mi tranquillizzò. Era il 17 marzo, mi disse di stare tranquillo perché da lì a una settimana avrebbero organizzato un agguato insieme ai socialisti dentro via Tasso per andare a liberare i prigionieri. E se trattava solo di aspettare una settimana, mi disse, anzi, bisognava pure lavorare di più, perché per preparare questo agguato c'era più roba da dove smistare e da dove far passare: volantini, fogli, direttive, insomma, tutte dovevano passare pure dalle mani mie, no? Allora mi disse: «Tu vai là, lavora, che poi a Zifranchino ci penso io e te lo libero io». E io mi misi a lavorare. Dal giorno dopo, tranquillo, perché se il gobbo si metteva in mezzo ad un'azione era difficile che falliva, no? Pensavo io. E allora mi si allevava a lavorare, 17, 18, 19, 20 di marzo, tutto a posto, 21, 22, tutto liscio, fino alla mattina del 23. Perché il 23, mentre stavo lì a distribuire lì i giornali, ma pure le direttive per l'agguato del giorno dopo, lì a Fontana dei Trevi, a un certo punto li vidi arrivare dal fondo della via. Marciavano compatti, tutte e sei, uno a fianco all'altro. Stesso passo, teste abbassate, cioè non erano i militari, non erano fascisti, non erano tedeschi, erano l'amichi mia, Neganer, Pigna, Romoletta, il Palude, Mimmo, il Carota, tutte e sei puntavano dritti verso di me. E quando ci arrivarono, mi accorsi davanti a me, mi accorsi che Neganer teneva la palla sotto braccio, come al solito, e che Erpigna si staccò dal plotone e venne pure faccia a faccia pure lui a un centimetro dalla bocca che un altro po' mi baciava e mi disse: Arici, ma che si fa così, amici? Dice: che si fa così, amici, che si inizia una partita a settembre e poi se finisce questi vanno di che tu non giochi mai perché vuoi giocare, perché c'ha pure da perdere, che dici che tu te ritiri perché c'ha pure da perdere, mica ci credono che tu ce la fai, che tu non puoi. Allora mica si fa così, a settembre inizia la partita, c'ha anche il terzo soldato, poi sono arrivati i tedeschi, hanno chiuso Villa Cordiale. Mica si fa così, amici, non si fa così, amici, tocca rifarla sta partita, io ne faccio più a sentire questi, dicono che tu non vuoi giocare perché c'ha pure da perdere. No, non si fa, non si fa così. Allora oggi ai 3:30 se vediamo a Piazza Barberini, la partita la famo, la troviamo, troviamo uno slargo, troviamo un posto, il pallone ce l'avimo, mettiamo due giacchetti, famo sta partita così, vincemo, così mi sentivo più perché non avevo più saggio. Ma ai 3:30 a Piazza Barberini, vabbè. Che si attaccava Erpigna, non c'era modo di staccarlo, di fermarlo, di farlo sta zitto un attimo. Insomma, decisi d'annacce, 3:30 a Piazza Barberini in fondo, la guadra era il giorno dopo, dentro via d'Asso, mi potevo un attimo rilassare, farmi una partita con l'amica mia che era da tempo che non ci giocavo, e me ci presentai alle 3:30 a Piazza Barberini dopo aver finito tutti i compiti mia, e loro mi dissero che lo slargo per farsi la partita l'avevano trovato, stava all'angolo tra via Rasella e via delle Quattro Fontane. Non era Villa Cordiali, ma se poteva giocare. Allora presi il giacchetto mio e ci feci un palo. Quello del Pigna fa l'altro palo. Mimmo in porta, che era grosso, e come tutti quelli più grossi gli toccava sta in porta. Io ne canè, il Pigna da una parte, il Romoletto, il Palude, il Carota dall'altra. 3 contro 3. Chi per prima arrivava a 3 aveva vinto. E la partita quel giorno, pure se non era Villa Cordiali, si giocava uguale, de tac e de punta per confondere gli avversari, de fino. Solo che lì, non si sa perché, forse era l'area diversa, feci una finta, uno scavetto in sotto, scavarcai tutti, arrivò Negane da dietro col piattone e gli fece l'1-0, gli fece, e dai che ne mancano due, così questi non parlano più, namo un po', ma manca il tempo d'esurtà. Che il Carota con un tiraccio da lontano, brutto, spelacchiato, sto tiraccio che la palla non gliela faceva manca a fare un giro completo, che toccava mannaglia qualcuno a soffiargli da dietro per farla girare, e sta palla piano, si avvicinò verso la porta, Mimmo fece pannalla a PA, e gli passò sotto le cianche. Ma vi pare possibile che uno bravo a parà come Mimmo se faceva segnata un tiraccio, quelli si erano messi d'accordo, no? Chiaro, no? Io te do una cosa a te che ti rivegni a Robby Vecchi, tu fai segni a me, oh, ma io sti impicci li conosco, ma mica la prima volta chi vede, andiamo un po', e mi misi a litigare con tutte e due, e mentre litigavo con tutte e due la palla presa rotolò appena discese, rotola, finì tra i piedi di una signora alta con impermeabile chiaro addosso. Sa signora riprese la palla e puntò dritto verso di noi. Ragazzi, da qua ve ne dovete andare, ragazzi, che è pericoloso, ragazzi, andatevene al più presto, andatevene, che è pericoloso, non si può giocare. Ma che vuoi? Ma che la palla è tua? Ma che sotto l'impermeabile c'è la divisa da sordata tedesca? Fammela vedere, dai, ma che vuoi? Io gioco dove pare a me, va bene, la palla è mia, lo slargo pure, gioco dove pare a me, va bene, capito? No, ragazzi, non ci siamo capiti, ci stanno 1 milione di slargo a Roma, ma proprio qui dovete venire a giocare, ragazzi, proprio qui dovete venire a giocare, andate, venire più presto, che è pericoloso, come lo devo dire, non si può giocare qui, è pericoloso, è meglio che ve ne andate. Beh, insomma, per farla breve, sta storia, non starei manco qui a raccontarvela se non avessi visto nell'occhi di quella signora l'occhi di una mamma, che una mamma quando te vuole dire una cosa la metà di quello che te può dire te lo dice con la bocca, con le parole, l'altra metà te lo dice con l'occhi. Tutto quello che non te può dire una mamma te lo dice con l'occhi, e quella signora come una mamma con quell'occhi mi stava a dire che per davvero era pericoloso, che per davvero era meglio che me ne andavo. Chi non mi poteva spiegare, ma quell'occhi mi stavano a parlare. Beh, insomma, io mi fidai di quell'occhi della mamma di quella signora. Che con quell'occhi mi stava a dire, vattene al più presto, che qua succede un macello. E io mi fidai di quell'occhi. Lei non mi poteva dire, ma quell'occhi parlavano chiaro. E allora con l'altre che non capivano, che pensavo che mi volessi ritirare come al solito, presi i giacchetti da per terra, presi la palla dalla mano della signora e me ne andai dritto verso la fermata del tram con l'altri che mi seguivano, e manco il tempo di arrivarci alla fermata del tram che sentimmo un botto, che io scemo com'ero lo legai in qualche modo alla signora, ma non riuscivo bene a capire quello che era successo. Solo il pomeriggio più tardi, quando mi presentai dal gobbo per vedere se era tutto pronto per l'agguato di via Rasella, sì, de via d'Asso per liberare i prigionieri, solo lì mi resi conto di quello che era successo, perché me lo spiegò il gobbo, mi disse che proprio lì a via Rasella erano saltati per aria 32 soldati tedeschi con un unico botto, proprio lì alle 3:30 del pomeriggio, proprio quel botto che avevo sentito, che io ero contento, pure il gobbo, solo che lui mi aggiunse che mo bisognava stare attenti, che l'agguato di Via Tasso per liberarsi Franchino sartava, che i tedeschi si preparavano alla vendetta, alla rappresaglia, che bisognava pure non farsi vedere troppo in giro. Questo mi aggiunse il gobbo, e io mi resi conto di quello che voleva dire con quella rappresaglia, con quella vendetta, perché mentre tornavo a casa, lessi un manifesto che avevano appeso gli soldati tedeschi, in cui c'era scritto che il comando tedesco dava ordine agli esecutori dell'agguato di Via Rasella di presentarsi al più presto in un loro comando, pena, dura rappresaglia. Ma se poi leggevi bene sotto, c'era scritto che l'ordine era già stato eseguito. E quale ordine? La rappresaglia. L'aveva ordinata il Führer in persona. Per ogni soldato tedesco morto, aveva detto il Führer, 50 cittadini italiani dovevano fare la stessa fine. Poi tira e molla, un po' di trattative, lo fecero scenne. Ma da 10 non si spostò. E allora che io, che un po' di matematica ce la so che 32 per 10 fa 320. E se uno ci aggiunge che la sera di quel 23 morì un 33esimo soldato tedesco, so che 33 per 10 fa 330. E se uno ci aggiunge che io la matematica ce la so, ma i fascisti, ignoranti com'erano, manco quella. Beh, te ne ritrovi 5 di più, perché i fascisti prepararono una lista dei 50 cittadini italiani, dei 50 cristiani italiani da mannà morì, da mannà in mano ai tedeschi e da mannà morì. E quando prepararono sta lista dei 50... E se sbagliarono, forse perché la matematica non ce la sapevano, e fecero dei 55. E i tedeschi, quando se ne trovarono 5 in più, dissero: vabbè, 5 di più, 5 di meno, e che differenza fa? E così 330 più 5 degli fascisti che non sanno la matematica fa 335 morti, ammazzati e trucidati in un unico pomeriggio alle fosse ardeatine, perché l'ordine parlava chiaro, doveva essere eseguito con una regolarità scientifica tra le 2 del pomeriggio e le 8 di sera. E si misero subito all'opera i generali, dentro ste gallerie sporche, piccole, strette delle fosse ardeatine, facevano entrare sti condannati a morte 5 per volta, con le mani legate dietro la schiena, li mettevano faccia al muro, e come stavano faccia al muro gli sparavano un colpo qua dietro la nuca, lasciandoli stecchiti per terra, morì. Poi però a metà del pomeriggio si resero conto che ste gallerie erano troppo piccole e che si perdeva tempo, perché i cadaveri bisognava piarli dalle braccia e dalle gambe e impilarli uno sopra l'altro, e questo portava via tempo, non ci avrebbero fatta per 8. E allora un generale tedesco gli venne una brillante idea. Disse: ma piuttosto che farli entrare 5 per volta, fammene entrare uno per volta a sti condannati, no? E come sono entrati, li famo salì sulla pila dei cadaveri, e così fecero. Il condannato entrava con le mani legate dietro la schiena, saliva sulla pila degli altri cadaveri già morti, e quando stava in cima, allora sì che si poteva sparare un colpo dietro la nuca, in modo che quello cascava, e cascava già impilato, e non c'era bisogno di piarlo dalle braccia e dalle gambe per sollevarlo, per metterlo sopra l'altro, si guadagnava tempo, no? 335 morti, ammazzati e trucidati in un unico pomeriggio, alle fosse ardiatine. Ma io tutto quello che vi sto a raccontare sulle fosse ardiatine, io allora non ce lo sapevo. Sapevo che c'era stata la vendetta, ma a Roma c'era chi diceva 500 al Colosseo, c'era chi diceva 1000 al Tiburtino, nessuno ce lo sapeva, né dove né quanti. E io allora, per questo motivo preoccupato, me ne andavo in giro per Roma a cercare di capire se ci poteva essere pure Zifranchino in mezzo a questi, no? E allora, non sapendo dove andare, un giorno me ne andai al Vaticano, ma quello, il Papa, uscì fuori dalla finestrella e mi disse di pregà. Ma che vuoi che prego? Eh? Che poi il Papa ce lo sapeva. E sì che ce lo sapeva il Papa. Perché la sera del 23, un generale tedesco di nome Dolmen, gli venne un attimo uno scrupolo, no? E pensò, ma mica potevamo fare sto massacro per davvero. E allora... subito da un comando tedesco, dal comando dove stava, si fece accompagnare subito al Vaticano e parlò con un segretario di Stato Vaticano, e al segretario di Stato Vaticano gli disse e gli spiegò per filo e per segno quello che c'aveva in mente di far Führer, e gli aggiunse pure che l'unico che si poteva mettere in mezzo per evitare che sto massacro succedesse era proprio il Papa. Ma il Papa, venuto a sapere la notizia, se ne lavò le mani, e poi con quei stesse mani s'affacciò dalla finestrella e mi disse di pregà. E che devo pregà io? Che devo pregà io? Io voglio solo sapere se mio zio è vivo o no. E voglio sapere chi è che hanno ammazzato o no. Beh, solo dopo una settimana, il 30 di marzo, cominciamo a capire qualcosa di quello che era successo. Perché due ragazzetti da Garbatella, dei 16 anni, stavano a rovistare tra la robaccia lì delle fosse ardeatine per trovare qualcosa da annassare i venni a robbi vecchi. E rovistando, trovarono un filo elettrico. E pensarono che alla fine di sto filo elettrico chissà che tesoro avrebbero potuto trovare. E presero a seguirlo sto filo elettrico. E segui sto filo elettrico. S'accorsero dopo metà di sto filo elettrico che era grasso. che era unto, che mano a mano si faceva sempre più grasso e sempre più unto, e arrivarono alla fine de sto filo e si trovarono davanti un foro piccolo, un tanfo infernale, uno sciame de mosconi che ronzava intorno. E allora impauriti, i due ragazzetti andarono a chiamare subito due parroci delle parrocchie vicine, e i due parroci accorsero subito, arrivarono, allargarono sto foro, e quando si affacciarono, quello che si trovarono sotto furono 335 corpi accatastati uno sopra l'altro. Qualcuno se vedevano i baffi, di qualcuno i capelli, la dentatura, se stavano a cominciare a muffire. E allora subito i due parroci corsero da uno più grande, da un cardinale, e gli dissero: ma mica li potremmo lasciare star lì ad ammuffisse, almeno gli adomo da una tomba a sti cristiani, no? Do un parente gli può apportare un fiore, mica li potremmo far muffi lì, no? Mica li potremmo far lasciare là ad ammuffisse, no? Tocca dagli almeno una tomba, gli dissero a sto cardinale. Ma il cardinale pure lui temporeggiò, se ne lavò le mani, e nel frattempo i tedeschi, che erano venuti a sapere quello che erano successo, tornarono lì, riscoppiarono un'altra dumine, e se può dire che le riammazzarono di nuovo, lasciandoli lì sotto ad ammuffisse, a decomporse. Ma intanto a Roma la notizia si era sparsa, ce lo sapevamo tutti ormai che l'agguato, la rappresaglia era avvenuta proprio lì alle Fosse Ardeatine, e per questo motivo si faceva come un pellegrinaggio, cioè si metteva in fila per ore e ore e ore a camminare. Per andare a vedere se alle Fosse Ardeatine c'era un amico tuo, qualcuno che conoscevi, un parente, per ore e ore sotto al callo a camminare come per un pellegrinaggio, per andare a vedere se lì alle Fosse Ardeatine c'era qualcuno che conoscevi, un amico tuo, un parente. E io pure mi misi lì per ore a camminare come per un pellegrinaggio, per andare a vedere se alle Fosse Ardeatine c'era un amico mio, qualcuno che conoscevo, zio Franchino. E quando ci arrivai lì alle Fosse Ardeatine non potevo vedere niente, perché quello che mi trovai davanti fu solo un cumulo di robaccia, di stracci, di roba vecchia. Però non me ne voleva andare via così. E allora presi dalla saccoccia un chiodo a quattro punte. Era piccolo. Era il primo, ma aveva fatto zio Franchino che non li sapeva fa. Però me lo portavo sempre come portafortuna. E allora davanti a sto cumulo scavai una buchetta e io ce lo lasciai. Che magari all'altro mondo gli poteva servire a zio Franchino, se stava lì sotto, no? E se lui non c'era, magari poteva servire all'altro 335. Che chi ce lo sa che all'altro mondo non c'è sta ancora battaglia da fa? Chi ce lo può sapere? Magari qualche battaglia c'è da fa pure là, se c'è sta un altro mondo. E sì, sì, Franchino non c'è sta, serve all'arte 335, se no lo usa lui. In qualche modo lo potrà riusare. E chi ce lo sa che non c'è sta una battaglia da fa? E così, chiusa la buchetta, me ne tornai a casa. Che niente s'era potuto sapere. E la vita mia era diventata un inferno, eh. E io non c'avevo più riferimenti. Ogni giorno me ne andavo lì per vedere se zio Franchino era tornato, ma la bottega era sempre chiusa, così come l'avevo lasciata io. E poi i tedeschi si facevano sentire sempre di più, eh. E sì, perché si presentarono il 17 d'aprile, e de notte, al Quadraro, si portarono via un intero quartiere. Lo rastrellarono de notte, si portarono via 950 uomini tra i 15 e i 65 anni, e de sti 950 si portarono via prima a Fossoli, in un campo di concentramento gestito dai fascisti, e poi su in Germania, de sti 950, se non centinaro, tornarono a Roma. L'altri morirono tutti. E queste cose arrivavano all'orecchio della povera gente. E poi se uno ci aggiunge, per me, per la vita mia, che mi arrestarono pure il gobbo, sì, si dice che lo trovarono che stava a lustrare le scarpe, che stava a lustrare le scarpe per strada, e siccome si incuriosirono per il fatto che era gobbo, lo portarono via. Si dice pure che qualcuno dice pure che se vennette agli tedeschi, chi ce lo sa, la storia del gobbo è sempre travagliata, ma me lo portarono via, io mi trovai senza punti di riferimento, che la vita mia era diventata un inferno, e ogni notte facevo un incubo, mi sognavo il soldato tedesco che mi aveva dato il carcio sull'osso sacro, mi sognava zio Franchino vivo che mi diceva di aiutarlo, me lo sognavo morto che mi chiedeva un fiore almeno lì alle Fosse Ardeatine, e mi sognavo qualsiasi cosa, mi sognavo il gobbo sgozzato, mi sognavo li peggio incubi. Eppure la notte del 3 giugno feci uno di sti incubi, la notte tra il 3 e il 4, e mi svegliai da uno di sti incubi, e poi rimasi sveglio perché sentii un rumore de camion che passavano vicino a casa mia. E mi affacciai dalla finestra senza farmi troppo vedere e vidi sta serie dei camion tedeschi che se ne andavano. O forse stavano a circondare Centocelle per fare rastrellamento pure da noi. Ma a me pareva proprio che se ne andassero. Non riuscivo a capire. Mi sembravano proprio in resa, però io non capivo. E sto via vai dei camion durò per 3, per 4, per 5 ore. Sì, forse era iniziato già prima che mi svegliassi. E c'è fu sto via vai dei camion. E quando finì sto via vai dei camion dei soldati tedeschi che mi pareva che se ne andassero, alle 7:30 del mattino, quello che rimase a Roma fu il silenzio. E del silenzio durante una guerra devi averci paura. Perché ai rumori t'abitui, li impari a riconoscere. Sai come te puoi nisconde, sai come te puoi difendere. Sai quando arriva lo scarpone del soldato, dove è meglio che te vai a riparare. Sai come te puoi difendere da un camion che sta arrivando. Sai come te puoi difendere se un aereo ti sta a passare sopra casa. Sai che in qualche modo te puoi difendere perché il rumore non pare a riconoscere, ma dal silenzio no. E il silenzio ti annuncia che sta per succedere qualcosa. Ma tu non ce lo sai come sarà fatto sto qualcosa. Che colore ci avrà? Da dove arriverà? Beh, per farla breve, sto qualcosa arrivò alle 3:30 del pomeriggio e c'aveva il color cagarella delle divise degli soldati americani che entrarono trionfanti dentro Roma, capirai, non gli pareva vero, pareva che avessero fatto tutto loro, che ci avessero liberato solo loro, che i comandanti fossero, non gli pareva vero, di entrare trionfanti dentro la città eterna, entrarono trionfanti, le primi ancora in assetto da guerra, l'altri che cominciavano già a squattarsela, a farsi vedere quanto erano belli, quanto erano bravi e dovete vederli, che tiravano le cioccolate, le caramelle, le sigarette, e la gente cominciava a scendere e pieva ste cioccolate e si metteva in bocca le caramelle e si metteva un bocca di sigarette e se mette ammazza e schifezza e se mangia sta maniera, ma che roba è, ma ci vado a portare roba più buona, gli dicevano, ma intanto la festa cominciava a prendere piede, ma io mica potevo festeggiare, la preoccupazione mia era quella di vedere se zio Franchino era ancora vivo o se era morto, e allora mi misi a correre fino a Via Tasso e lì trovai una serie di gente che cercava i parenti loro, e sì e no, dentro Via Tasso c'era rimasto un terzo perché l'altro si erano portati via e macellati e massacrati in chissà quale campagna vicino Roma, i tedeschi, ma qualcuno era rimasta, e allora i parenti si ritrovavano con quelli che erano stati in carcere a Via Tasso, eppure io volevo ritrovarsi Franchino, e mi si è strillato, zi Franchino, ma non lo vedevo, e l'altri si abbracciavano, e io gli passavo in mezzo, zi Franchino, ma niente, trovai pure il gobbo, che lui si era salvato, gli dissi se aveva visto zi Franchino, se l'aveva conosciuto, lui mi disse di no, ma io non volevo mollare, zi Franchino, ma che te strilli, arisci? Non la vedi che sto zoppo che mi hanno menato e non riesco manco a camminare? E poi dai, avevo detto, no? Bastava mannaggia qualcuno a indicare la strada americani e quelli sarebbero arrivati, no? Chiaro, no? Sapete che qualcuno ci è andato a dire come si faceva a fare 40 km da Anzio fino a Roma? Se no quelli tutt'al più erano arrivati a Rotonda, a Fiumicino o tutt'al più a Ostia, ma a Roma mica ci arrivavano. Sapete che qualcuno ci è andato e forse c'aveva ragione zio Franchino che qualcuno era andato a dire la strada, ma insomma eravamo liberi, liberi, liberi, e la parola libertà io non sapevo manco che voleva dire, ero andato sotto il fascismo e invece mo ero libero, potevo zompare, sartà, ballà, potevo baciarmi in bocca le persone, potevo baciare in fronte, potevo andare in giro nudo per strada, potevo abbassarmi i garzoni, potevo pisciallare, potevo fare come mi pareva. La libertà era una cosa preziosa, bella, ma proprio bella, che quel momento di libertà fu proprio una cosa bella che io non riuscivo a spiegarmi, che io potevo andare a dire alle persone quello che gli pareva, gli potevo dire che era brutto, che c'aveva il naso lungo, che c'aveva storto, che c'aveva le orecchie che gli sporgevo, potevo fare come mi pareva, potevo dire quello che mi pareva, perché la libertà era un bene prezioso e tutti eravamo felici, una festa per sta libertà, che la libertà era proprio un dono prezioso. Ma sta libertà durò un giorno, quella libertà lì, perché poi iniziò la libertà quella comandata dagli americani, che gli americani sapevano sparare, ammazzare, ma la furbizia ce l'avevano. E allora, come arrivarono? Subito, se può dire che crearono, io sono ignorante, so del popolo, non è che ve le so spiega bene ste cose, ma ce lo so quello che fecero, no? Lo vidi con l'occhi mia, che gli americani arrivarono, e se sentirono subito i padroni, e cominciarono a piazzare uomini loro di qua e di là, e ricostruirono, non su chi aveva combattuto davvero, non su chi la battaglia l'aveva fatta, sì, a noi ci lasciarono almeno di poter scrivere la Costituzione, che quello è un testo sacro, e spero che nessuno lo voglia mai toccare, nel 60 ancora non l'ha toccato nessuno, spero che nel futuro nessuno ci voglia mettere mani, ma insomma però gli americani, a parte quello, cominciarono a fare una rete, andarono a fare massacri di qua e di là e subito rintervennero e lo fecero in Sicilia, lo fecero in Toscana, lo fecero in tanti punti dell'Italia a fare disastri e poi intervenì per rimettere sicurezza, e quello fu il lavoro loro, e soprattutto per ricostruire potere si rivolsero a ex repubblichini, a ex monarchici, a ex fascisti, a gente de chiesa, insomma io tutte queste storie so del popolo, non ve le so raccontare, ma so che gli americani fecero una rete fitta di persone personaggi loschi, e in mezzo a sta rete ci finì pure Giuseppe Arbano, il gobbo del quarticciolo, ci cascò dentro, perché una volta finita, una volta arrivata la libertà, Giuseppe ritornò a far delinquente, quello che era, e non capì però, non capì d'essere finito in mani sbagliate, perché gli americani si divorzero a personaggi loschi, come ho detto prima, e uno di questi fu proprio sto Salvarezza, che fondò l'Unione Proletaria, ma che de proletario non c'aveva proprio niente, lui che era un ex repubblichino, un ex monarchico, poi diceva pure di essere stato un ex partigiano, insomma l'aveva fatta un po' tutta sto Salvarezza, e sto Salvarezza però faceva solo gli interessi degli americani, era un sordatino nelle mani loro, che gli andava a fare dei favori, però per farli sti favori mica ce li sporcava lui le mani, chiamava dei soldati ancora minori, tipo il gobbo, no? Che gli andava a recuperare sordi di qua, che andava a fare un agguatello di là, che andava a fare una distruzione di là, dove gli serviva lo chiamava, lui andava, il gobbo se piaveva i sordi era tornato a fare delinquente comune, ma non capì la portata di quello quando si era messo in mezzo, tanto che cominciò a fiutò a qualcosa, perché nel novembre del 44 sto Salvarezza gli mise due bombe nella saccoccia e gli disse di andare a fare esplodere durante un corteo dei socialisti e comunisti che marciavano per la prima volta dentro Roma insieme, compatti, e allora il gobbo si presentò a sto corteo per farli saltare per aria, e solo allora però, solo allora si rese conto di quello che stava a fare, che gli sordi vabbè, ma quando si vide sfilà mezzo quarticciolo, mezza centocelle, tutti quelli con cui aveva fatto la battaglia, tutti quelli con cui si era legato nel tempo, e mica li poteva far saltare così, e allora chiamò uno del servizio d'ordine e finse un arresto, finse de farsi arrestare. Ma sta cosa arrivò all'orecchio di Salvarezza, che capì che del gobbo non ci si poteva fidare, e allora il 15 gennaio del 45 lo chiamò dentro l'ufficio suo di via Fornovo, gli disse sì e no 3-4 paroline, e poi come un viacco, mentre il gobbo si girò, gli sparò due colpi dietro la schiena, lasciandolo stecchito per terra morto. E poi trascinandolo fuori nel piazzale per farci credere a noi che sarà trattato da una sparatoria con i carabinieri. Ma quale sparatoria? Ma vi pare che dopo tutto quello che vi ho raccontato il gobbo si faceva ammazzare da chi? Dai carabinieri. E poi quale sparatoria? Quale sparatoria se non aveva mai tirato fuori la pistola? Quale sparatoria se non c'era un segno di un corpo nella piazza? L'aveva ammazzato Salvarezza, perché era un personaggio scomodo il gobbo, che se ci fosse stato il gobbo la vita sarebbe cambiata per tutti noi. E soprattutto per me, che a forza di stare a parlare con voi stasera, manco ho venuto un giornale, va. Fatemi trovare un posto dove si comprano, va. Fatemi trovare un posto dove ce l'hanno 40 lire per comprare questo giornale, va. Arrivederci, alla prossima, arrivederci. Il messaggero, trovato l'assassino del gobbo. Il messaggero, trovato l'assassino del gobbo.